Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Mi dicono che sono le 21 di sabato. E quindi si parte con Mebius. Ciao Federico, ciao, buonasera Chiara. A tutti. Allora, in questa puntata parleremo di un giallo matematico, l'incognita X, che è in realtà uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale, okay. Certo. E poi parliamo di ristoceutica, che è un mix tra ristorazione e nutraceutica, insomma, una nuova disciplina che sarà interessante. E però cominciamo da un argomento difficile, interessante. Ascoltate. Probabilmente qualcuno di voi, ascoltatori e ascoltatrici, la scorsa settimana ha sentito questo spot andato in onda a Radio 24. 20 secondi, ascoltiamolo. Dalla vita non possiamo lasciar fuori il pensiero della sua fine e dobbiamo condividerlo per una vita più serena. Non è un paradosso, è una questione di consapevolezza. Eppela con 2p.it/consapevolezzaora. Franco Del Corno, psicologo, psicoterapeuta. Questo spot che avete sentito è uno spot promosso da Presenza Amica, è un'associazione che da 25 anni lavora nella, loro la definiscono così, relazione d'aiuto nel momento, insomma, più difficile certamente della nostra esistenza, quando c'è, però sono migliaia ogni giorno, c'è un collettivo piccolo di persone che con una in particolare gestiscono, non so se questo termine è esatto, però insomma l'idea è giusta, gestiscono la fine di un'esistenza. Ora, cosa dice Presenza Amica? Beh, noi oggi abbiamo finalmente, perché non è una cosa che c'è da tempo, dei buoni strumenti in un paese come il nostro per la gestione dell'aspetto medico, che è importantissimo, però c'è una mancanza invece su quello che non può certo essere esternalizzato, no, Del Corno. La gestione di questo gruppo, che però non può anch'essa venire da fuori, siamo noi che dobbiamo avere un'altra percezione di ciò che è la morte, di ciò che è questa transizione, perché questi collettivi in realtà rendono poco, no, collettivo questo momento, e invece è un momento nel quale ci sono tanti aspetti, storie diverse delle persone, storie di famiglia, sensibilità più o meno alte, e si crea un grande momento di dolore che viene vissuto drammaticamente e poi si proietta anche in avanti. Allora, Presenza Amica dice: ragioniamo un po' su come dovrebbe cambiare la nostra cultura per avere un diverso approccio. La parola chiave sulla quale io credo dobbiamo riflettere è quella che lei ha usato, ed è la parola relazione. La tendenza che tutti noi abbiamo davanti a momenti particolarmente difficili della nostra vita e il momento in cui dobbiamo fronteggiare l'evenienza della nostra morte oppure della morte di una persona che ci è cara, la tendenza che spesso, la tentazione che spesso abbiamo è quella di chiuderci, di isolarci, di esaurire nella riflessione su noi stessi e sul nostro dolore tutte le energie che sono a disposizione. In realtà il momento del dolore, in questo caso il momento del confronto con la morte, è proprio uno di quei momenti nei quali la possibilità di condividere le emozioni, i sentimenti, le paure, le angosce, i bisogni, i desideri con qualcun altro è assolutamente fondamentale. La condivisione non può essere intesa in termini, per così dire, riduzionistici o semplicistici. Non si tratta semplicemente di mettere a punto una sorta di protocollo di affiancamento delle persone che si trovano nella condizione di malato terminale o dei loro familiari. Si tratta di far crescere una cultura della disponibilità all'ascolto dei bisogni autentici di queste persone, che sono inevitabilmente bisogni diversi, bisogni sui quali si proiettano le singole storie di vita, le dinamiche interne ai gruppi familiari che stanno vivendo quel momento drammatico e che hanno ciascuno una storia differente, pregressa, della quale bisogna assolutamente tenere conto. È un ascolto, mi viene da dire, su misura della situazione con la quale veniamo a contatto. Per esempio, Presenza Amica alla quale anche noi come redazione stiamo contribuendo volontariamente a questo processo. Loro mi hanno detto di una madre che perde un figlio, una figlia, non è un lutto normale, perché per quella donna è un paradosso, è come cancellare la nascita che c'è stata. Quindi questa per esempio è una differenza enorme nel vissuto. Assolutamente, ed è una differenza che va tenuta in conto. Affrontare questo tipo di tematiche, l'esempio che lei faceva della morte di un figlio, è sicuramente un grosso trauma. Allora, sappiamo che purtroppo quando si vivono dei grossi traumi si possono poi avere gli inneschi di una serie di condizioni psicopatologiche estremamente dolorose e di grande sofferenza per la persona che le vive. L'alternativa a trascinare a lungo il lutto, che poi diventa il ritorno di esperienze, ricordi, vissuti assolutamente disturbanti, che tormentano anche a lunga distanza da quello che è successo la persona che ne è stato protagonista, l'alternativa è quella di poter lavorare su questo lutto, non da soli, ma con una persona disponibile ad ascoltare e disponibile ad ascoltare la qualità particolare che quella singola persona davanti a quella singola esperienza umana testimonia e mette in campo. Nel preparare questa intervista lei mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Questo cambiamento culturale che dobbiamo fare, che si può fare, è qualcosa di veramente nuovo e profondo. Lei ha citato il fatto che gli animali, per esempio, quando c'è pericolo, si chiudono in se stessi. Cioè c'è una natura che tende a fare questo, però noi, insomma, con la testa possiamo provare a modificare questo difetto, se vogliamo, naturale. Ormai da molto tempo si sa che gli animali, ma anche gli esseri umani, davanti ai grossi dolori e anche davanti ai grossi pericoli, e voglio sottolineare il fatto che può rappresentare un pericolo per il nostro equilibrio psichico un dolore lancinante come quello, ad esempio, della madre che deve tollerare la morte di un figlio. Allora, davanti a questi pericoli, a queste angosce, gli animali, come lei ricordava, qualche volta ricorrono a un meccanismo che ha un nome tecnico inglese, si chiama freezing, cioè l'animale finge di essere morto, si irrigidisce in modo da tenere a bada, in quel caso, la minaccia di un predatore che sta per attaccarlo. Nella relazione fra esseri umani, nella stragrande maggioranza dei casi il predatore non c'è, però davanti a dolori grossi la tentazione della chiusura, nell'irrigidimento, questa sorta di congelamento delle emozioni la proviamo tutti, ma dobbiamo tenere presente che quanto più le emozioni vengono congelate, tanto più sono destinate poi a ritornare in maniera disturbante e in qualche modo a corrompere la nostra capacità di mantenere un senso di noi stessi che ci aiuti ad andare avanti nella vita. Franco Del Corno, grazie. Io vi ricordo che Presenza Amica ha aperto un crowdfunding per finanziare proprio la diffusione di questo messaggio. Farà tutta una serie di attività per portarlo anche in giro. E l'indirizzo per il crowdfunding è eppela.it/consapevolezzaora. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono arrivati alla 14ª produzione di pièce teatrali dedicate alla matematica. Teatro e matematica sono quelli di Pacta dei Teatri, è una compagnia milanese, progetto arte, cultura, territorio associati, questa è la sigla di Pacta, che da tempo coniuga matematica e appunto avventure teatrali. E li seguiamo da diversi anni, li seguiamo, li segue. Assolutamente, e questa volta sono arrivati proprio al cuore della matematica, perché vanno sulla scena con l'Incognita X. Sarà al Teatro Carcano di Milano lunedì 12 dicembre alle ore 21 e poi girerà un po' in Italia. Testo di Riccardo Mini, e adesso sentirete le voci di Maria Eugenia D'Aquino, Riccardo Magherini, Vladimir Todisco Grande. La regia di tutto è di Valentina Colorni. Allora, la prima cosa che sentite non poteva che essere questa. È un giallo, eh? Risolvere un omicidio non è diverso da risolvere un'equazione. Hai un assassino, che chiameremo X, di cui bisogna calcolare l'identità. E una serie di indizi sparsi per la stanza. Questi sono i coefficienti e le variabili dell'equazione. Sono loro a dirti chi è X, se li sai interpretare, naturalmente. E soprattutto se non commetti errori da un passaggio all'altro. Ho guardato in tutto l'appartamento, ma non ho trovato documenti. Quindi, oltre all'assassino, non conosciamo neanche l'identità della vittima. Hai interrogato il padrone di casa? Ah, sì, dice che l'affitto era in nero e dice che aveva provato a insistere, ma la vittima si era offerta di pagare 4 volte l'affitto normale purché non facesse domande. Quindi non abbiamo un nome? No. Non abbiamo un'incognita sola, ma due. X, l'assassino, e Y, la vittima. E non più un'equazione sola, ma un sistema di 2 equazioni, in ognuna delle quali compaiono sia X che Y, che vanno risolte insieme. Perché X e Y sono strettamente collegati, come 2 innamorati racchiusi in un abbraccio. E non possiamo definire uno senza scoprire l'altro e viceversa. 2 innamorati. Strano paragone trattandosi di un omicidio. Nulla lega 2 persone più di un omicidio. E li lega per sempre. Comunque sia, non sembra che sappiamo niente né di X né di Y. Non è vero, sappiamo già un sacco di cose. Ad esempio sappiamo che Y, la vittima, pagava un affitto quadruplo pur di non dover rivelare chi era. Ciò significa che si stava nascondendo, non solo, ma aveva tanti soldi per farlo, non solo. Con quello che pagava avrebbe potuto permettersi un attico nel centro storico, eppure aveva scelto di abitare in questo buco in periferia, uno di quei posti dove si viene per essere dimenticati. Hai visto quante cose già sappiamo? Da chi si stava nascondendo? Ma da X, naturalmente. Nel prossimo audio invece sentirete uno dei 2 ispettori che incontra il medico legale che fa l'autopsia al cadavere. E qui invece si capisce che nel risolvere i sistemi di equazione ci sono anche soluzioni apparenti che però, attenzione, possono essere ingannevoli. Sentiamo. Sai, io l'ho guardato bene e credo sia stato avvelenato. Hai letto l'autopsia? No, l'autopsia è domani. Ma ormai, sai, io me ne intendo, dopo 15 anni a guardare i cadaveri mi basta un'occhiata, I segni dell'avvelenamento ci sono tutti. Secondo te, chi può essere stato? Ad avvelenarlo? Ma non saprei, la moglie è gelosa. Sì, può darsi. Sì, comunque, sicuramente è stata una donna, Sono le donne che avvelenano e gli uomini che sparano, strangolano, Ma come fai a saperlo? C'è scritto sui gialli, Tu li leggi, gialli? Ogni tanto. Ma guarda che gialli sono importanti e ti spiegano com'è fatta la vita. Ma più che la vita, la morte, direi. Ah, è lo stesso. Senza una non c'è l'altra. Bella frase, molto saggia. Perché io leggo molti gialli, Benché, se quello che dici è vero, è più probabile che sia stato un uomo. Ad avvelenarlo. Perché? Prova a pensarci. Se io fossi un assassino e volessi uccidere qualcuno, lo avvelenerei. Così tutti penserebbero che sia stata una donna e io non sarei sospettato. Che ragione. Però. Quindi probabilmente sono gli uomini ad avvelenare e le donne a strangolare e sparare. È solo un'ipotesi. Lunedì 12 dicembre, ore 21 al Teatro Carcano a Milano. La prestigiosa Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa apre un ristorante. Certo che sti poveri ricercatori per tirar su fondi. Federico, stai un po' esagerando. Che faticata. Si mettono in cucina, non è proprio così. Però in realtà vogliamo parlare, come dicevamo nei titoli, di ristoceutica, che è un neologismo, che adesso ci facciamo spiegare, dal coordinatore di un laboratorio di medicina critica traslazionale dell'Istituto di Scienze della Vita, proprio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Noi spesso andiamo a Pisa a raccontare di robotica, in questo caso è tutto un altro argomento. Quindi il coordinatore di questo laboratorio è qui con noi. Buonasera Vincenzo Lionetti. Buonasera. Benvenuto. Vogliamo un po' introdurre forse che cos'è la medicina critica traslazionale prima di andare subito a raccontare del neologismo? Sì, la medicina critica traslazionale, come dice la parola stessa, cerca di trasferire una domanda dal letto del paziente per cercare una risposta nel laboratorio di ricerca, ecco perché è traslazionale. Medicina critica perché la domanda si riferisce a quelle che sono delle condizioni patologiche non compatibili con la vita o, nel caso più fortunato, con la condizione di benessere dell'individuo. Si può svolgere una prevenzione primaria nel caso in cui il soggetto sia esposto ad un rischio e in quel caso il paziente è ancora potenzialmente sano e quindi con delle strategie prevenire che si ammali, o si può esercitare una prevenzione secondaria, questo nel caso in cui il paziente abbia subito un danno, ad esempio l'infarto del miocardio, e si voglia evitare l'insorgenza di una sindrome ben più grave come l'insufficienza cardiaca. E nell'ambito proprio della prevenzione si colloca quello che noi abbiamo detto all'inizio, l'aristoceutica, che Federico scherzosamente diceva i ricercatori aprono ristorante. Non è così, però insomma vi state muovendo, avete presentato proprio qualche giorno fa anche in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo questo nuovo concetto di aristoceutica che si va a applicare ovviamente ai ristoranti, alle mense e a tutti quei luoghi dove appunto la gente va per mangiare, per ricrearsi anche. Sì, l'aristoceutica è un neologismo nato dalla fusione di due parole, una è la ristorazione e l'altra è la nutraceutica. La nutraceutica non è altro che la scienza che studia quelle caratteristiche curative presenti negli alimenti. Diciamo che la nutraceutica non nasce dal nulla, ma si basa innanzitutto sulla tradizione farmacologica dei certosini o delle spezierie benedettine e poi è stata ulteriormente corroborata dalla scienza moderna grazie all'avanzare delle tecnologie che non solo hanno confermato ciò che prima si riscontrava grazie all'osservazione, ma hanno addirittura identificato un meccanismo. Per cui negli alimenti che sono prevalentemente di origine vegetale ci sono una serie di composti che non veicolano calorie, ma sono composti cosiddetti epigeneticamente attivi, ovvero composti che possono modulare l'espressione di geni protettivi senza andare a modificare la sequenza del DNA. Una volta compreso questo, è ovvio che bisogna combinare questi alimenti e disegnare la dieta di un individuo sulla base di questi alimenti e quindi si introduce anche il concetto di medicina personalizzata. E riesce a farci qualche esempio appunto di alimenti con queste caratteristiche? Un esempio che noi stiamo, un alimento che noi stiamo studiando oramai da qualche anno è l'orzo. Contiene uno zucchero che si chiama beta-glucano idrosolubile ed è una molecola che è in grado di acetilare le proteine intorno alle quali si avvolge il DNA. Che si chiama acetilare, che cosa vuol dire? Per farle un paragone, acetilare significa sbrogliare una matassa e fare in modo che il DNA che fino a quel punto era compattato, era quasi chiuso in un forziere, si renda disponibile a una lettura e una traduzione. Per cui in questo modo è possibile che geni che prima non erano espressi si esprimano. Diciamo che la nutraceutica, come dire, interviene sull'alimento esistente e positivamente ne modifica alcune caratteristiche. No? No, non è sull'alimento. L'alimento diventa un cavallo di Troia queste sostanze epigeneticamente attive che prima conoscevamo o sottovalutavamo o non c'erano dei meccanismi ben definiti che ne potessero valorizzare le proprietà e quindi stabilirne anche la dose e quindi l'alimento diventa in questo caso un veicolo ottimale per fare in modo che ciascuno di noi si possa proteggere nei confronti di un'esposizione a un rischio. Lei parlava del parlava dell'orzo, però ad esempio voi fate qualcosa in più, cioè oltre a tutto lo studio che appunto rivela quelle che sono le proprietà e come si può utilizzare per quali patologie, avete fatto anche qualcosa in più, cioè lo abbinate e quindi ecco che lì torna la parola ristorazione, nel senso che si possono fare delle ricette tra virgolette nutraceutiche. È quello che ci siamo raccontati dinanzi all'Accademia Italiana della Cucina, proprio disegnando quello che potrebbe essere l'identikit del piatto ristoceutico per eccellenza. Come cavallo di Troia dell'orzo, io sono di origini pugliesi, quindi si può pensare a una pasta fatta con della farina d'orzo in modo tale che 100 grammi possano garantire il veicolo di almeno 3% di beta-glucani. Cioè, quindi delle orecchiette fatte delle di farina d'orzo. Ad esempio, okay. Poi ci mettiamo come condimento delle brassicace leggermente a vapore, delle brassicace a vapore, in questo caso dei broccoli. Benissimo. Ecco, condito con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva estratto ad esempio da una tipologia specifica di oliva, che è l'oliva coratina, che è quella che ha la più elevata concentrazione di polifenoli, questi antiossidanti. Che cosa veicola ad esempio il tavolo? Favorisce, come l'orzo, l'espressione di geni protettivi. Quindi, dosando sapientemente il quantitativo, io posso proteggere il cuore e, noi abbiamo visto recentemente, anche il cervello in modo abbastanza simpatico. In che modo riuscite, insomma, a mettere insieme tutta questa conoscenza, questi studi, queste ricerche che voi fate? In che modo adesso le comunicate ai ristoratori? In che modo, cioè, riuscite a incontrarli? Fate tutto un lavoro anche, non so, di formazione per coloro che gestiscono le mense, ad esempio? Sì, la Ristocertica nasce proprio nel mese di novembre del 2016, prima non esisteva. Devo dire che l'interesse da parte dei ristoratori, dei cuochi soprattutto, si è fatto subito sentire, e ovviamente questo obbliga noi, che siamo un'istituzione dedita all'alta formazione, di mettere su dei master di formazione proprio sulla ristoceutica. Ma anche il dialogo con l'impresa agroalimentare ci permetterebbe di rendere questa cosa ancora più usufruibile, ancora, e sensibilizzare ancora di più i ristoratori. Infatti diverse aziende con le quali collaboriamo, molte nell'ambito agroalimentare, ci permettono la produzione di trasformati come pasta, pane, che potrebbero facilmente arricchire e sedersi alle tavole dei migliori ristoranti italiani. Essere impiegato. Quindi la filiera, diciamo, per i due terzi è stata già istituita, costituita. Ora ci manca l'ultimo step, che è quello dei cuochi e dei ristoratori. Bene, bene. Allora, insomma, buon lavoro davvero. Ci siamo, buona dai. Ricerca, professore. Grazie. Abbiamo sempre pochissimo tempo per chiudere, ma lasciatemi ricordare questo: è il weekend delle stelle di Natale dell'AIL. Come sempre vi ricordiamo che con un contributo minimo di 12 euro e in tantissime davvero piazze italiane potete sostenere la ricerca dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Quindi da qui fino a domenica sera potete andare a farvi una passeggiata e comprare le stelle di Natale, così contribuirete alla ricerca, a tutto quello che gira intorno all'AIL, di cui potete trovare tutte le informazioni sul sito www.ail.it. Ecco qua. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao.